Sometimes I get a good feeling, yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that Trasmissione autogestita sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Allora, benvenute alla nostra 105esima, che mi risulta anche difficile da dire, 105esima trasmissione. E come sapete siete all'ascolto di Una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, una trasmissione autogestita, come ben sapete appunto, a cura del coordinamento lesbiche romane. Stasera siamo io, che sono Lucilla, Claudia, che facciamo insieme la nostra trasmissione, e ahimè, ancora una volta, per buona nostra fortuna, abbiamo come fonica Caterina. Allora, vi ricordo subito che se volete contattarci, la nostra email è contatti@clrbp.it e che il sito, se lo volete visitare, ci sono varie cose, dentro anche qualche documento, quindi se vi va è www.clrbp.it. E invece se volete chiamarci in radio siamo allo 06 49 17 50 di Radio Onda Rossa ora. Se ci volete trillare lo potete fare, come sempre. E poi siamo reperibili allo 06 68 64 201 normalmente il mercoledì, qualche volta non ci siamo, ma però potete lasciarci un messaggio telefonico, perché c'è una segreteria, potete inviarci un fax con qualsiasi cosa ci vogliate dire. E vi diciamo che domani intanto non ci siamo, però il prossimo mercoledì sicuramente sì, ma voi veniteci a trovare giovedì, perché ci sarà la proiezione di Forbidden Love, come poi vi ridiremo meglio, per la serie Les Bollywood. Ma veniamo a questa sera, abbiamo molti appuntamenti di cui parlarvi, compresi quelli del Pride e tante altre cose. Per il momento mandiamo una intervista. L'intervista è fatta da Elisabetta Torresin del gruppo Drasticamente di Padova, perché insieme Elisabetta e il suo gruppo e una serie di altre persone, di altre donne, altre lesbiche, organizzeranno una splendida manifestazione in settembre, che sarà il Festival Le Sonate, Festival di Musica Lesbica. Ma sentite dalla viva voce di Elisabetta, che abbiamo intervistato una decina di giorni fa, perché è stata qui a Roma. Allora, anche gli appunti oggi. Ecco, allora siamo con Elisabetta Torresin di Padova, siamo al Centro Femminista Separatista, lei è venuta qua oggi per un sit-in che si è tenuto, e cogliamo l'occasione tra il sit-in e una riunione per intervistarla a proposito di un'iniziativa, prima che lei muoia probabilmente, per intervistarla rispetto a un'iniziativa che si terrà a Padova. Quando? Allora, già un errore, già un errore. Ti colgo colta sul fatto. In realtà si tiene quest'anno, essendo stata pensata come un'iniziativa itinerante, si terrà a Venezia, Mestre, Marghera, insomma, quella è il luogo, diciamo, che abbiamo scelto quest'anno per fare le suonate, che è al suo secondo anno. Dopo 3 anni la prima iniziativa fu fatta nel 1999 e è un'iniziativa di musica, un festival di musica. Pensavamo che appunto, essendo già coperti alcuni spazi, cioè quello musicale, quello teatrale, insomma quello musicale ci mancava, insomma quello cinematografico volevo dire, e quello teatrale erano già occupati, quindi abbiamo detto ci occupiamo anche di musica, che insomma è... E abbiamo pensato a questa iniziativa quest'anno appunto faremo in parte il centro sociale Marghera, che si chiama Rivolta, e poi al centro culturale Candiani, che è un bellissimo spazio che ci offre Mestre, dove si tengono generalmente delle iniziative culturali di arte moderna e installazioni eccetera eccetera. E insomma pare che ci sia una buona disponibilità a fare delle cose lesbiche e di donne. Dicevo, un festival di musica. E quindi cioè, come lo organizzate? È autofinanziato, per esempio? Come al solito, esatto. Sì, non c'è scampo, anche se veramente stiamo chiedendo finanziamenti al Comune di Venezia, che noi ci auguriamo, insomma, sia un attimo un po' più sensibile che a Padova, e a suo tempo Padova in cambiamento di amministrazione, quindi zero contributi, insomma, però a quel tempo noi vivevamo in maniera piuttosto florida dal punto di vista economico, cosa che ora invece non è più, e per cui insomma stiamo contattando delle associazioni più ricche delle nostre, stiamo contattando associazioni di donne internazionali, tipo organizzazioni non governative che magari offrano la possibilità di dare un contributo, anche perché quest'anno abbiamo fatto questa scelta di non toccare l'Europa fondamentalmente come generi musicali, cosa che facemmo 3 anni fa, ma dedicheremo grande spazio alla musica italiana, cioè i prodotti dei gruppi italiani, e poi ci occuperemo di un'area che è quella appunto dell'America Latina, e qui casca l'asino, perché effettivamente è il costo maggiore poi. Perché ovviamente invitare qualcuno in America Latina vuol dire almeno 1,5 milioni come minimo di viaggio a persona, e quindi siamo in attesa di capire dove riusciamo a tirar fuori dei soldi. Però insomma ormai abbiamo iniziato questa avventura, e sarà quello che sarà, e riusciremo a fare quello che riusciremo a fare. Elisabetta, allora tu con quale organizzazione stai lavorando? Tu sei? Allora, diciamo che sono dentro a tante cose, un po' come la gramigna, col bene o nel male. Come il prezzemolo, che sta bene su tutto, vai. Ma mi piaceva la gramigna, un'erba cattiva, che non muore mai. Allora, io sono ovviamente la presidente del Circolo Lesbico Drasticamente, che è una delle associazioni che pubblicizza, sponsorizza questo, lo promuove questo festival. Dall'altro però esiste un'organizzazione che è trasversale, di cui fanno parte donne singole, cioè che non sono necessariamente aderenti a gruppi, ma è un gruppo che si è formato già 3 anni fa, che si chiama Lesbiche Suonate. È ovviamente un gruppo tutto lesbico che è partito così pazzerellanamente a organizzare questa cosa, e si ripropone per la seconda volta di organizzare questo evento. Però ecco, quello che mi preme dire è che Lesbiche Suonate non ha una sigla che lo identifica. Poi ovviamente alcuni circoli sono promotori, tra l'altro Pomotore è anche un circolo misto che ci è stato, devo dire, molto utile, che è l'Arcigay Lesbica Dedalo di Venezia, con cui abbiamo un rapporto di molti anni di collaborazione, di cui ci vediamo ciecamente, dove abbiamo trovato, diciamo, dei maschi insomma un attimo più sensibili e molto disponibili anche ad aiutarci senza pretendere qualcosa in cambio, insomma. Bene, e quindi l'iniziativa si terrà quando? Allora, si terrà il 13, 14 e 15 settembre sia al centro sociale Rivolta a Marghera per quanto riguarda i concerti, e il centro culturale Candiani a Mestre, che è dove invece verranno fatte le installazioni, le mostre, i DJ set, diciamo in tutto il pomeriggio, mentre i concerti poi serali, e la cosa durerà per 3 giorni, ci saranno vari generi musicali, rock, pop, musica classica, sperimentale, installazioni sonore, installazioni di altro tipo, insomma tutto quello che diciamo può riguardare l'aspetto musicale, diciamo nella multimedialità. Ecco, benissimo. E per aiutarvi, per esempio, perché noi questa tua intervista, come sai, la mandiamo per radio, noi ci conosciamo ormai da tempo rispetto anche al lavoro della radio, quindi, certo. Però anche avere dei riferimenti per contattarci, certo. Per contattarvi e per sapere, avere più informazioni, ma anche per poter, certo. Chi vuole fare delle iniziative per l'autofinanziamento, per esempio, a chi si può rivolgere? Beh, diciamo che le suonate non ha una sua email, quindi il circolo drasticamente si fa, insomma, dato che ha un sito, dato che ha una propria email, ovviamente si fa da garante per la circolazione delle informazioni. Quindi drasticamente @libero.it è la mail a cui dovete scrivere. Poi per quanto riguarda il numero di telefono, il mercoledì dalle 21 alle 23 allo 049 77 56 99, e poi però esiste anche un sito dove si possono, prossimamente ci sarà anche la programmazione, e che è www.women.it/suonate, dove insomma speriamo al più presto di poter fornire maggiori delucidazioni su questo festival e riuscire a concludere questa programmazione, che però molto dipende appunto dalla questione dei finanziamenti. Poi chi vuole finanziare, siamo sempre disponibili ovviamente, e non potremo non esserlo, però quello che ci piacerebbe anche lanciare come appello, insomma, per questa iniziativa è, da una parte, vabbè, l'aspetto economico, vabbè, ci interessa, però anche dall'altra la possibilità di collaborare attivamente a questa iniziativa in ogni modo, cioè anche in maniera propositiva, perché è vero che esiste un'organizzazione, ma e che anche per certi versi chiuse, io non lo nascondo, perché lavora bene e da questo punto di vista magari, cioè adesso sarebbe difficile far entrare nuovi elementi, però l'iniziativa è ancora aperta per le proposte, per cui queste vengono ancora prese in considerazione, soprattutto per quanto riguarda questioni dispositive, e siamo aperti comunque a considerare qualsiasi tipo di idea, cioè su questo non c'è preconcetto, non c'è assolutamente indisponibilità. Bene, allora io credo che si possa interrompere qui e ti ringraziamo. Ovviamente. Io invece ringrazio voi perché siete state veramente indispensabili, vi ringrazieremo per questo. Va bene, anche e poi supporto cartaceo. Esatto, va bene. E poi se ci fate avere altre notizie ovviamente le manderemo. E non solo questo, ma cercheremo di promuovere delle iniziative anche per l'autofinanziamento, perché è un aspetto, credo, di certo rilievo. Grazie. Grazie Elisabetta e a presto. Su tue meni non lo angelo. Vedo da con un mire. Viva, viva il mio vivo angelo. Vedo da con un mire. Allora, volentieri vi leggiamo e vi proponiamo un pezzo che abbiamo ricevuto da Rosanna Fiocchetto, che è una nostra compagna, amica, che vive in Umbria e che volentieri salutiamo. E questo pezzo che lei ci ha mandato è un pezzo su Mary Daly che si intitola Il dizionario delle streghe. E vi leggiamo così, tutto di filato. La mia arte personale consiste nella scrittura e nella creazione di teorie filosofiche. Non so se conoscete Mary Daly, ma da questo pezzo potrete veramente capire e conoscere alcune cose di questa filosofa e questa pensatrice. Una fotografia di Gail Bryan la raffigura seduta sulle rocce con in mano una gigantesca Labris, la doppia ascia delle Amazzoni, contestatrice nata dalla cima dei capelli corti fino alla punta delle scarpe da tennis. Mary Daly è un'anti-accademica con 3 lauree, teologa e filosofa. Insegna etica femminista al Boston College, istituzione universitaria che ha cercato più volte di sbarazzarsi di lei, senza mai riuscirci, a causa della resistenza organizzata dalle sue studenti. Il suo insegnamento, infatti, è estremamente scomodo e dirompente per la cultura patriarcale, che Daly critica in modo radicale. Inoltre, è una lesbica dichiarata che ha compreso il significato del terribile tabù che impedisce alle donne di toccarsi intimamente, cioè di entrare profondamente in contatto tra loro, e quindi l'impotenza di infrangerlo. Nel 1991 fu entusiasta del nostro invito a partecipare alla prima settimana lesbica italiana. Non voleva lasciarsi sfuggire l'occasione di chiamare il Papa sua nullità, come fece durante la conferenza, proprio in Papalandia. Nella sua autobiografia Outcourse del 1992, Daly racconta che, nonostante il clima terroristico della guerra del Golfo, sentì che era assolutamente giusto andare a parlare a Bologna. E descrivendo l'atmosfera dell'affollatissima sala dei notai, aggiunse: le donne erano calde, selvagge, sagge. Le loro domande e i loro commenti erano intelligenti. Loro stavano sopravvivendo in Italia, all'ombra del Vaticano. Conoscevano l'oppressione delle donne. Nel corso di Un posto per noi si saldarono connessioni tra donne di tutta Italia e di molti paesi, artiste, musiciste, scrittrici, streghe di tutti i generi, condivisero idee e immagini. La prima settimana lesbica italiana è stata un successo fantastico. Fu, penso, un annuncio di ulteriori fenomeni galattici. Ecco, ora manderemo un piccolo stacco musicale, però volevo dirvi che a quella prima settimana lesbica personalmente c'ero e ho sentito dalle mie vive orecchie la viva voce di Mary Daly ed è stata una cosa veramente emozionante. Ricordo ancora, con un grande senso di piacere, la sua gioia, l'incredibile energia della sua presenza e del suo esserci. E fra tutte le sue opere, quella che a mio parere, qui parla ovviamente Rosanna Fiocchetto, la condensa maggiormente è il Webster First New Celtic Wikidictionary of the English Language, scritto nel 1987 in combutta con Jane Caputi. Un libro impubblicabile in italiano, e meno che le sue straordinarie traduttrici di Mary Daly, Maureen Lister e Donatella Maisano, non vogliano in futuro impegnarsi in un lavoro così immane. Quando decise di estendere al linguaggio la sua ricerca, Mary Daly aveva già pubblicato saggi famosi da La Chiesa e il Secondo Sesso del 68, a Gene Ecology del 79, a Pure Lust dell'84, Al di là del Dio Padre nell'86. L'origine di Wikidary è proprio in questi precedenti opere. Durante la loro stesura, Daly aveva dovuto esercitare una sorta di carattere intellettuale nei confronti di un linguaggio fatto dagli uomini per gli uomini, espressione di una sadosocietà razzista e misogina, rinserrato entro regole e convenzioni accademiche che Daly preferisce chiamare accadementi. Il bisogno di parole insieme nuove e arcaiche e di metafore metapatriarcali era emerso con forza man mano che si sviluppavano in diverse dimensioni immagini, memorie e concetti, simboli e miti centrati sulla donna. Ad esempio, chiarisce Daly, in Out Course ho potuto smascherare la trinità tutta maschile come totale rovesciamento della triplice dea. Ovviamente questo simbolico cambiamento di sesso ha avuto la funzione di legittimare il necrofilo possesso patriarcale della coscienza spirituale. O ancora, sono riuscita a vedere e a nominare la croce di tortura della cristianità come un rovesciamento dell'albero della vita che legittima e perpetua l'inutile sofferenza fabbricata dall'uomo e la distruzione della vita su questo pianeta. Infatti, soprattutto in Gene Ecology, Daly ha analizzato non solo come le molte atrocità commesse contro le donne nel mondo sono interconnesse le une con le altre, ma anche che la giustificazione simbolica di queste atrocità è l'assassinio della dea, dei miti fallici e delle vite concrete delle donne. Era tempo dunque di inventare e di usare un nuovo vocabolario. Daly chiama i normali dizionari dictionaries, dove dick in inglese significa pirla, cazzo. Il Wikidary è invece il dizionario per di donne, wicked, che significa perverse, peccaminose, ma anche nello slang americano favolose, eccezionali. Inoltre, la radice lessicale è la stessa di wick, strega. Dunque, un dizionario delle streghe, uno stregonario. Daly è consapevole della natura magica del linguaggio, che definisce come un atto creativo per esorcizzare l'afasia, l'amnesia e l'aprassia, ovvero l'incapacità di parlare, di ricordare e di agire, inflitte alle donne dal patriarcato. La metafora centrale è insieme il tema unificante del libro, è quella della tessitura to web, un nuovo tessuto linguistico, una nuova rete di comunicazione tra donne per imparare a ridere del linguaggio patriarcale, liberando le parole dalle gabbie e dalle prigioni dei suoi schemi. Il Wikidary si articola in ragnatele di parole, il cui disegno labirintico a spirale è anch'esso una metafora dell'energia creativa che rifiuta gli schemi lineari. La struttura del dizionario è complessa, come complessa è la coscienza che scava nella storia e nel significato. Ma Delhi evoca anche un'altra immagine: come gli uccelli, le parole hanno ali, sono spiriti ancestrali che risvegliano la memoria. Molte parole sono a doppio taglio, come la labris, costituite da una coppia di opposti, ad esempio foreground, avanescenza, e background, retroscena. L'avanscena è la terra dei padri, l'arena centrata sul maschio e monodimensionale, dove hanno luogo la fabbricazione, l'oggettificazione e l'alienazione, una zona di sentimenti, percezioni e comportamenti fissi. La retroscena invece è la terra d'origine del sé delle donne, è quando, dove noi siamo realmente vive, una dimensione in cui partecipiamo attivamente al divenire, il verbo dei verbi. Al termine sono concettualmente alcuni termini, scusate, sono concettualmente plurali, come coraggio, che ha ben sei versioni sostantivate da diversi aggettivi: ontologico, oltraggioso, di andarsene, virtù che rende le donne capaci di separarsi da tutte le religioni patriarcali e da altre istituzioni senza speranza. Di vivere, il coraggio di rifiutare l'inclusione dello Stato dei morti viventi, di vedere, il coraggio di diventare disillusa, di peccare. E a proposito di quest'ultimo tipo di coraggio, nell'incontro bolognese Mary Daly ci gridò: "Sin big, peccate alla grande", incitandoci al più grosso peccato per una donna, cioè essere completamente noi stesse. Saltando da una ragnatela all'altra, il Wikidere non è necessariamente un dizionario da consultare con ordine. Troviamo voci come emozione, passione elementare che muove le donne da un fisso strutturato stato di torpore. Metodocidio, una forma di deicidio, cioè deliberato assassinio da parte delle menadi del dio patriarcale Metodo, il dio dell'accademia. Disgusto, virtù del, profonda repulsione sperimentata dalle donne che stanno superando l'intorpidimento psichico e riprendendo i sensi. Roboticidio, il processo di spogliarci delle false noi stesse manifatturate dallo stato della robotizzazione, liberando la selvaggia in noi. Autolussuria, qualità quintessenziale di tutte le donne che cercano. Serpentina, una che ha le caratteristiche di una serpe: saggia, magica, terrena, arcaica, pericolosa, strana, estranea alla fallocrazia, fuori dai parametri della prevedibilità. Donna terribile, donna che rompe il terribile tabù, diventando dunque lei stessa un terribile tabù. Accademenzia, normale stato delle persone nell'accademia, irreversibile deterioramento delle facoltà intellettuali. Blob, comune, orrido prodotto dell'architettura moderna, struttura senza finestre, senza aria e senza vita, che riflette la depravazione morale e intellettuale dei suoi progettisti e proprietari. Esempi, continua Fiocchetto, i laboratori e gli uffici della fallotecnocrazia, gli ospedali, le università statali. Cazzocrazia, stato di erezione sovranazionale e soprannaturale, vulcane, tutte le donne del patriarcato, inteso come contenitore di profonde memorie e passioni che hanno sempre la potenzialità di affiorare ed esplodere alla superficie, rendendo possibile l'autorealizzazione e salti di coscienza e di macro cambiamento. Questi salti devono far parte del nostro percorso. Nella visione di Deli sono simili ai momenti di essere di Virginia Woolf, in quanto sono rivelatori, aprono porte sul retroscena sempre più lontano. Penso che ogni volta che una donna fa un simile salto porta con sé delle altre, con l'esempio, con l'ispirazione. Il suo coraggio è contagioso ed è politico, anzi metapolitico, come lo è con la sua tempra beffarda e ridente il Wiktionary, il dizionario delle streghe, e la stessa Mary Daly quando scrive: ridere ad alta voce è la virtù delle eccentriche megere che sanno che abbiamo solo il nulla da perdere, siamo le perdenti di niente. Sings the blues. She's got 'em bad. She feels so sad. Wants the world to know just what her blues is all about. Appuntamenti. Ciao a tutte da Claudia, ben trovate. Iniziamo con i Pride che si svolgono questa settimana a Catania e a Roma. E a Catania è già iniziato, noi diamo l'appuntamento del 27 giugno, libreria Volta Pagina, via Francesco Crispi 235. Presentazione del libro Tra le rose e le viole di Porpora Marcasciano, con prefazione a cura di Maria Gigliola Toniollo e postfazione a cura di Elena Velena. E il Pride di Catania si conclude il 28 giugno col corteo per la via Etnea, principale arteria nel cuore della città. E passiamo a Roma International Pride 2002, 26-30 giugno, a Roma ovviamente. Allora, contro la violenza per i diritti umani, dedicati alle vittime dell'omofobia. 26 giugno, convegno sulla letteratura lesbica a cura di Valeria Viganò. E allora, di questo convegno vediamo esattamente le date e gli interventi programmati. Allora, mercoledì 26 il convegno si tiene a Roma, Casa della delle Letterature, Piazza dell'Orologio 3. Mercoledì 26, ore 16-19, intervengono Teresa De Lauretis, Daniela Danna, Ambra Pirri, Simonetta Spinelli, Liana Borghi. Giovedì 27 giugno, sempre nella stessa piazza dell'Orologio 3, Casa delle Letterature, sempre 16-19, interventi di Delia Vaccarello, Sandra Petrignani, Maria Rosa Cutrufelli, Margherita Giacobino, Catherine McGilvray, scusate l'inglese mio pure pessimo, Poi venerdì 28 giugno si conclude, sempre 16-19, interventi di Margherita Giacobino e Valeria Viganò, Melania Mazzucco, Elena Stancanelli, Anna Maria Carpi. E in questa seduta conclusiva verranno letti brani tratti dai testi delle scrittrici. Ora, altri appuntamenti sempre del Pride di Roma. In ricordo di Silvia Rivera, giovedì 27 giugno ore 17 a Roof Garden, Palazzo delle Esposizioni, via Milano 9A, presentazione del libro Omicidi, gli omosessuali uccisi in Italia, di Andrea Pini. Al termine della presentazione, con gli interventi di Andrea Pini, Franco Grillini, onorevole, Massimo Mazzotta, dottor Bruno Failla, capo squadra omicidi Roma, e altre letture di Ciro Cascina, ci sarà un dibattito al termine. Venerdì 28 giugno, ore 17, Sala del Carroccio, Campidoglio, presentazione del libro Le ragioni di un silenzio, le persecuzioni degli omosessuali durante il fascismo e il nazismo, a cura del Circolo Pink. All'iniziativa prenderà parte Mariella Gramaglia, assessore alla semplificazione del Comune di Roma. Intervengono Gianfranco Goretti, Gianni Zardini, moderatrice Rossana Praitano. È sempre il 28, convegno dibattito La violenza dei diritti negati. Moderatrice Rossana Praitano. E intervengono onorevole Titti De Simone, Elisabetta Torresin, Michele Bellomo, Eva Mamini, Azione Gay e Lesbica Firenze, Crisalide, Azione Trans Genova. E per finire, il Gay Pride di Roma si conclude con la parata per le strade di Roma, percorso definitivo, ore 16, appuntamento a Piazza della Repubblica con partenza alle ore 17, e con un itinerario che si svolgerà per via Cavour, Fori Imperiali, Piazza Venezia, Campidoglio, Teatro Marcello, per finire a Piazza della Bocca delle Verità intorno alle 18.30, con discorsi e concerto gratuito. Ok, continuiamo con gli appuntamenti, come avete sentito, per dirvi che usciamo un attimo da Roma, anzi però rimaniamo un secondo a Roma e vi invitiamo tutte domani sera per la serie Les Bollywood, dopodomani sera, scusate, non mercoledì ma giovedì per la serie Les Bollywood, alla proiezione che daremo di Forbidden Love, che è un documentario splendido che vi consigliamo vivamente di vedere dalle 9.30 in poi, le 21.30. Oh, mentre vi diciamo, al Recycle di Milano, per la serie Musica dal vivo, il 29 giugno ci saranno le Giri in Giro. Poi, se avete voglia di fare un giro fuori Roma sempre, l'associazione Le Amazzoni dell'Arcobaleno organizza incontri al Podere Petraia, ghirlandaia di Grosseto, dove c'è la possibilità anche di pernottare in tenda e avere ospitalità negli agriturismi limitrofi. Ma la cosa carina è che ci sarà il 6 luglio Canti e Tamburi dall'Ovest, dal 12 al 14 luglio Stage di Tai Chi Chuan, il 2 e il 4 agosto Astrologia, il 17 agosto poi la festa di mezzanotte. Per informazioni 0566 90 2925 o 0566 81071. Il Circolo Arcilesbica Trentino Alto Adige invece invita dal 20 al 21 luglio l'altra Venere del circolo, a un weekend in preparazione del convegno nazionale con la partecipazione di Lidia Menapace. E nelle domeniche 30 giugno, 14 e 28 luglio e 11 e 25 agosto, escursioni ai laghi e montagna. Info 0461 3901 40. Oh, poi la scuola estiva di storia e culture delle donne Anna Rita Buttafuoco, che si tiene alla Certosa di Pontignano di Siena, propone per il suo 13° anno di attività identità migranti, genere, etnia e classe dal 18 al 24 agosto e genere e nazione del 19° e 20° secolo dal 25 al 31 agosto. Informazioni 0575 92 6307. Queste sono le cose in Italia che si fanno in questo periodo e nel periodo estivo. Ora, ancora a Venezia, organizzato dal Centro Donna, all'ombra di un gazebo nel parco di Villa Franchin, quarto incontro con il colore giallo, giovedì 27 giugno dalle 17 alle 19. Lucia Di Micheli racconta Danila Comastri Montanari. E poi rientriamo sempre a Roma, alla Casa Internazionale delle Donne, delle donne in via della Lungara. Della Lungara, oppure San Francesco di Sales 1A. Dal 24 al 27 giugno, richiami, parole e urla. Incontro con Giulia Varli dell'Odin Teatre, scusate la pronuncia terribile, progetto evento a cura della Braxa Teatro. Il 24-25 giugno dalle 16 alle 20, 26-27 giugno dalle 9 alle 13, stage pratico di tecniche vocale. 26 giugno dalle 16 alle 18, conferenza con Giulia Varley. E ancora, sempre alla Casa Internazionale delle Donne, dal 18 al 28 giugno, India, sconfinamenti. Rassegna senza limiti di libri e altri oggetti. E ancora, per invece le vacanzine, che ne dite a Roma di andare alla Casa Internazionale della Donna in via della Lungara 19, dove è stata inaugurata la foresteria Orsa Maggiore nel cuore di Trastevere, con affaccio sul giardino interno ombreggiato da una magnolia centenaria? Offre camere da 2 a 8 letti, bar, ristorante e tutte le attività culturali e ricreative della casa. Per informazioni 06 68 40 17 24. Se poi svoltate l'angolo e andate in via San Francesco di Sales 1B, trovate il bar delle sorellastre e trovate anche il centro femminista separatista, quindi potete, è una vacanza anche quella. E invece, questo a noi ci teniamo moltissimo, le vacanze in masseria. Quest'anno l'associazione Desiderande di Bari, che ha appena festeggiato il 10° compleanno, organizza vacanze in masseria dal 18 al 25 agosto 2002. La calda ospitalità del sud ad un è un posto incantevole, organizzazione e relax, momenti collettivi di gioco e sorprese spettacolari vi aspettano fra gli ulivi secolari e il mare di Puglia. Per informazioni 333 71 55 87. Martedì prossimo ci vediamo ancora qui, anzi ci sentiamo ancora qui, andrà in replica questa trasmissione, ci sarà Claudia che dovrà leggervi qualcosa di molto interessante, che è per esempio l'appello alla manifestazione del 6 e del 6 luglio contro le TRA, cioè la riproduzione tecnica di riproduzione assistita, e io e Claudia e Caterina insieme vi salutiamo e vi ricordiamo che è una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. Ritorna martedì prossimo sui 97.900 di Radio Onda Rossa, gli 87.900, ho sbagliato, volevo vedere se eravate preparate, 87.900, che l'email è contatti@clrbp.it e il sito è www.clrbp.it, telefono 06 68 64 201, segreteria fax. Telefonateci, mandateci i contributi. Ciao, ciao, ciao. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no. Yeah.